Hey, whoa, no. Hey, no. Whoa, hey. 어제 취한 네 멜로디다. 어제 취한 네 멜로디다. 어제 취한 네 멜로디다. 너 파초 멜로디다. 너 파초 멜로디다. 어제 취한 네 멜로디다. 일본 살러 별로 디바르코세. 말리 말리 말리 뭐 사나 questa bitch richiama muore per la coca sta puttana mamma ti prometto niente più prometto di faccio cooking mamma buono sto tagin la mia vita è un film ho dimenticato il pin cheese ho 10 anni meno di te Hello, faccio benedite. Hello, faccio benedite. Oggi è ci andi benedite. Oggi è ci andi benedite. E lo faccio benedite. E lo faccio benedite. Sono naturale, poi. Il più naturale possibile, ascolti il flow, dici com'è possibile. Di fianco a me sto sempre invisibile. Jolly mafia è invincibile. Quello che dici è incredibile. Ti inventi una vita, mi viene da ridere. Ti svegli alle tre, un euro a mamma per il caffè. Fate con le tate i tuoi, e venite da me. E sti soldi li flexo, entro in boutique e li spetto. Scopo sta bici anche se non intendo. Si spara una riga e entra nel range. Partire dal bendo, seguo il sogno e non mi arrendo. Io la bici sacendo, tu sprechi uno stipendio. Questo buono non ci fa, ma tengo il suo contatto. Ho 10 anni meno di te e lo faccio benedite e lo faccio benedite ho 10 anni meno di te ho